Sono Marco e ho 20 anni, alle spalle c'ho rimpianti. Sono solo ormai da tempo perché dicono è illegale amare un altro uomo, sono un omosessuale. Ma per gli altri son diverso, non gli importa del mio cuore. Identità di genere o forse sessuale, cosa importa? L'omofobia nel mondo esalta. Mi chiedo quanto duri questa vita da infelice, prima che me ne vada da solo in modo atroce. La legge a cosa serve se non mi sai capire? L'ansia che mi sale appena prima di dormire. L'indomani se sorrido chissà cosa puoi pensare. Di certo un attentato al tuo vivere civile. Mi insulti, ti denuncio e te lo annuncio. Il poliziotto ride solo se glielo pronuncio. Lascio stare, pazienza se non vuol capire. Qui ne ho sentite tante, ma non le posso dire. Sono come te, qualcosa di imperfetto. Per te sono un difetto. E sono 10 anni che mi pongo le domande. L'autoaccettazione ancora non so che vuol dire. Psicologi malati credono che sto a mentire. Dicono sia solo un mio disordine mentale. Continuano ricerche sullo stato da sociale, senza mai intuire il fattore naturale, morale. Un omosessuale che può amare. Scupitevi scienziati, non sono un animale. Ricevo un'emozione solamente di nascosto. La custodisco dentro la canzone, dentro il testo. Ma scrivo in modo strano che nessuno può capire. Quel troppo poco che nessuno potrà censurare. Sono come te, qualcosa di imperfetto. Per te sono un difetto. Se vietato anche sceglierlo da solo, il modo con cui andare via da questo mondo vuoto. La sento questa musica, mi offre l'emozione di essere tra i primi, di un esempio da seguire. Sperando che il futuro possa regalare amore alle persone che hanno pensato solo a far del male. I vostri sguardi mi hanno dato voglia di cambiare. E ora me ne vado perché ho smesso di soffrire. Perché ho smesso di soffrire.